Mondanda, Mondanda, non il viaggio ed il tuo raggio ci manda. Questo paesaggio, che miraggio, che sogno, che sogno. Come molina vento sotto la luna d'argento, dorme l'olandesino nel suo lettino vicino. Ogni cosa giace, tutto tace. Che pace, che pace. Odi, itio, pala, palo. Palano, palori, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Mamma ran in cori, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Calano d'amore, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà. E di me ti parleranno. Meravigliosi tuli tuli tuli tuli tuli tuli tuli la la la la la la la la la la la la la la. Parlano tra loro il tuli tuli tuli tuli pa. Muoveranno in coro tuli tuli tuli tuli pa. Oggi tu magico suon che viene dal cuore pieno di languore, nell'incanto dei tuoi sogni ottenere amore. La luna di lassù dalla cupola blu volge gli occhi lì in giù, udendo questa canzone il suo bianco faccio si compone che le pare fatto strano di ascoltare le lescano che cantano tulli tulli tulli pan, tulli tulli tulli pan, nel cantare questa canzone. Le lescano ci sembrerà tre